Va ora in onda In ascolto della parola, spunti di riflessione sulla liturgia della parola della festa. Cari amici, quest'oggi ci permettiamo, a bruciapelo, una domanda impertinente. Chi tra noi sente davvero il bisogno di essere toccato e guarito da Gesù? Siamo sordi quando non sentiamo il grido di aiuto che si leva verso di noi e preferiamo mettere tra noi e il prossimo il vetro dell'indifferenza. Dei genitori sono sordi quando non capiscono che certi atteggiamenti strani o disordinati dei figli nascondono una richiesta di attenzione ed amore. Un marito è sordo quando non sa vedere nel nervosismo della moglie il segno di una stanchezza o il bisogno di una chiarificazione. E viceversa, naturalmente. Siamo muti quando ci chiudiamo per orgoglio in un silenzio sdegnoso e risentito, mentre forse con una sola parola di scusa e di perdono potremmo riportare la pace e la serenità in casa nostra. Siamo muti quando non rompiamo il silenzio sulle ingiustizie e sulle iniquità che ci circondano e, addormentati, ci adattiamo, senza pensare e agire. Chi dunque sente il bisogno di essere guarito per tornare a udire e a parlare? Lo sente chi desidera in cuor suo diventare discepolo, coltivando il dono della fede, per aprirsi all'ascolto della parola e alla contemplazione del mistero di Cristo, in vista di un successivo impegno e coinvolgimento nell'annunzio della propria fede. Solo così potremo dire che la vita non è poi tanto brutta, come proclamano troppi profeti di morte, e che l'azione guaritrice di Dio è ancora all'opera, pur in mezzo a quanti annunziano imminente la fine di tutto e di ogni speranza. E anche il discepolo potrà proclamare l'amore di Dio, presente e vicino ad ogni cuore povero, umile e misericordioso. Da lode al Signore, anima mia. Breathe. Chissà quante volte abbiamo partecipato al battesimo dei bambini, oppure abbiamo avuto la grazia di vivere il momento della rinascita di un catecumeno adulto, la notte di Pasqua, attraverso la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Il rito battesimale conserva tutto il fascino e la forza efficace dell'opera di guarigione realizzata da Gesù. Nell'itinerario battesimale, in particolare gli orecchi e la lingua dell'uomo, sanati dalla grazia di Dio, rappresentano la porta di ingresso alla vita nuova dei figli. Gli orecchi esprimono la disponibilità all'ascolto, docile e attento, di quanto la parola verrà gradualmente rivelando, chiedendo l'obbedienza della fede. La lingua acquisterà la voce della testimonianza, dopo che il cuore del discepolo sarà illuminato dalla fede e confortato dalla parola che salva. Entrato nella vita nuova in Cristo, il battezzato non avrà più bisogno di auricolari speciali per sentire il messaggio che gli viene proposto, né tantomeno di megafoni per far sentire la voce della sua testimonianza, perché sarà la sua stessa vita ad essere messaggio convincente. Così la guarigione battesimale entra in queste aree della vita, dando loro un'identità nuova, che trova in Gesù la propria base più sicura e certa. Questo miracolo, compiuto attraverso i segni dei sacramenti, non è un dono per pochi, ma un'occasione di bene per tutti coloro che entrano a far parte della famiglia di Dio, nella Chiesa. Le orecchie attivate all'ascolto e la bocca resa capace di parlare diventano una modalità comune di ascoltare, una modalità di essere Chiesa raccolta nel nome di Cristo, una testimonianza detta ad alta voce. Questa dinamica della rinascita battesimale emerge con tutta evidenza nelle letture di questa 23ª domenica del tempo ordinario. In un orizzonte oscuro, chiuso da troppo tempo a causa dell'esilio e della cattiva sorte che si è abbattuta sul popolo dell'Alleanza, in questo orizzonte si apre finalmente un bagliore di luce. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. La voce del profeta Isaia invita a ritrovare energia e nuovo coraggio per guardare in avanti e in alto e uscire così dal tempo dell'umiliazione e della sconfitta. Si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa, il suolo riarso si muterà in sorgenti d'acqua. Si prepara una festa con i tratti e i colori della primavera e con i prodigi di una creazione nuova. Saranno coinvolte la terra e tutte le creature viventi, i ciechi, i sordi, gli zoppi, i muti. A loro si annunzia che potranno nuovamente vedere, ascoltare, saltare e parlare. Torneranno a vedere il cielo e ad ascoltare. Torneranno a camminare sulla terra e a parlare con i fratelli. Sono i segni della salvezza, attesa e nuovamente promessa da Dio, che ora viene a salvare il suo popolo. La lode rivolta a Dio continua nel Salmo. I poveri di Yahweh, gli oppressi, gli affamati, i prigionieri, i ciechi, i caduti, gli stranieri, gli orfani, le vedove. Tutti costoro sono i destinatari privilegiati dell'amore grande e misericordioso di Dio. Se Dio predilige i poveri, anche la comunità dei credenti è chiamata a vivere lo stesso stile di disponibilità e di accoglienza. È l'invito della seconda lettura. La lettera di Giacomo descrive una riunione durante la quale si celebra l'Eucaristia. L'Apostolo premette una considerazione di carattere generale. Non mescolate a favoritismi personali la vostra fede nel Signore Gesù. Se per Dio siamo tutti sue creature, di pari dignità, i cristiani non devono fare distinzioni secondo le categorie del mondo. Non accada che di fronte ad un ricco tutti si facciano in quattro per rendergli omaggio e offrirgli il posto migliore, mentre al povero viene lasciato un posto marginale, con la presunzione che sia adeguato alla sua condizione. Mentre i cristiani possono essere tentati di fare discriminazioni, il modo di agire del Signore è diverso. Dio ha scelto i poveri per la loro ricchezza di fede e per la loro fiducia in Lui. Solo i poveri, proprio perché non possiedono nulla, possono sperare nell'aiuto del Signore e nella promessa del suo regno di giustizia e di fraternità. Lungo i suoi spostamenti fuori dalla Palestina, Gesù incontra un pagano sordomuto. Con i suoi gesti e con la sua parola efficace lo guarisce, e quell'uomo diventa il simbolo del pagano che prima di credere è incapace di ascoltare Dio e di lodarlo, ma una volta toccato e guarito da Gesù diventa nuova creatura. Gesù non operava miracoli con la bacchetta magica o schioccando le dita. Guardando verso il cielo, emise un sospiro e disse Effatà, cioè apriti. Quel sospiro che Gesù si lascia sfuggire al momento di toccare gli orecchi del sordo, racconta del suo coinvolgersi nelle sofferenze dei poveri, del suo partecipare al loro dolore e del suo farsene carico. Egli ha preso su di sé le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Come tutti i miracoli compiuti da Gesù, anche questo, raccontato dal Vangelo di Marco, non è mai fine a se stesso. Ciò che Gesù ha operato un giorno per quell'uomo sul piano fisico indica ciò che egli può operare ogni giorno per ogni fratello sul piano spirituale. L'uomo guarito era un sordo muto, non poteva comunicare con gli altri, ascoltare la loro voce ed esprimere i propri sentimenti e bisogni. Se essere sordi e muti significa essere incapaci di comunicare correttamente con il prossimo, di avere relazioni buone e belle, allora è a tutti che Gesù rivolge quel suo grido, Effatà, cioè apriti. La Scrittura pone l'origine di ogni cattiva comunicazione nella difficoltà umana di rapportarsi in modo sano e bello gli uni con gli altri. Ciò che decide della qualità di una comunicazione non è il semplice parlare o non parlare, ma il parlare o non parlare per amore. Diceva Sant'Agostino, è impossibile sapere in ogni circostanza qual è la cosa giusta da fare, se parlare o tacere, se correggere o lasciar correre. Ecco allora che ti viene data una breve regola che vale per tutti i casi. Ama e fa ciò che vuoi. Preoccupati che nel tuo cuore ci sia amore. Poi, se parli, sarà per amore. Se taci, sarà per amore. E tutto sarà bene, perché dall'amore non viene che il bene. È da qui che bisogna ripartire. Gesù è venuto per riconciliarci con Dio e così riconciliarci gli uni con gli altri. E lo fa soprattutto attraverso i sacramenti. La Chiesa ha sempre visto nei gesti apparentemente strani che Gesù ha compiuto sul sordomuto un simbolo dei sacramenti, mediante i quali egli continua a toccarci fisicamente per guarirci spiritualmente. Come scriveva Papa Benedetto XVI, spiegando questo racconto del Vangelo di Marco, la chiusura dell'uomo, il suo isolamento, non dipende solo dagli organi di senso. C'è una chiusura interiore che riguarda il nucleo profondo della persona, quello che la Bibbia chiama il cuore. È questo, diceva il Papa, che Gesù è venuto ad aprire, a liberare, per renderci capaci di vivere pienamente la relazione con Dio e con gli altri. Ecco perché questa piccola parola, Effatà, apriti, riassume in sé tutta la missione di Cristo. Egli si è fatto uomo, perché l'uomo, reso interiormente sordo e muto dal peccato, diventi capace di ascoltare la voce di Dio, la voce dell'amore che parla al suo cuore, e così impari a parlare a sua volta il linguaggio dell'amore, a comunicare con Dio e con gli altri. Per questo motivo, la parola e il gesto dell'Effatà sono stati inseriti nel rito del battesimo, come uno dei segni che ne spiegano il significato. Mediante il battesimo, la persona inizia, per così dire, a respirare lo Spirito Santo, quello che Gesù aveva invocato dal Padre con quel profondo sospiro per guarire il sordo muto. E concludendo il rito del battesimo, il sacerdote si rivolge al neofita proprio con queste parole: «Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre». Anche noi ci lasciamo e ci salutiamo con una preghiera. Oggi ancora, Signore Gesù, pronunzia per noi quella parola, Effatà, apriti. Apri le nostre orecchie, perché non siamo sordi agli appelli del nostro prossimo, amico o traditore che sia, e alla tua voce nella coscienza, piacevole o antipatica che sia. Apri le nostre bocche, perché possa sgorgare sincera la voce dell'affetto e della stima, ferma e convinta. Apri le nostre mani, perché restino pulite nel nostro impegno, nelle nostre attività, capaci di stringere le mani di tutti. Apri i nostri cuori, perché battano all'unisono con il tuo, vivendo emozioni che conducono a scelte concrete e sentimenti che resistano alla corsa del tempo. A tutti voi, serena domenica. Abbiamo trasmesso In ascolto della parola, spunti di riflessione sulla liturgia della parola della festa.